a ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta. Tremò la terra quel giorno e tremò l'Italia di scosse non ancora finite 20 anni dopo. Tremò la Sicilia tra l'isola delle femmine capaci, come registrò l'Istituto di Geofisica di Monte Erice, e da quel momento, dalle 17:57 di quel 23 maggio 92, tremò lo scheletro dell'intero paese, precipitato in una voragine di trame e trattative con cui tuttora l'Italia fa i conti. Perché se Cosa Nostra premette il telecomando dell'attentatuni con le mani di Giovanni Brusca, anche dietro la strage di Capaci sembra esserci stata una convergenza di interessi esterni, proprio come per il tritolo di Via D'Amelio. Tracce e indizi di inchieste aperte vanno in questa direzione e con questa prospettiva sullo sfondo, per la prima volta le indagini mettono una tessera in comune tra le due stragi, i boss di Brancaccio. Complessivamente dalla dichiarazione di Spatuzza e Tranchina emerge un ruolo del mandamento di Brancaccio nelle stragi sia di Via D'Amelio che di Capaci, che precedentemente nelle precedenti inchieste giudiziarie era passato inosservato. Ecco, l'elemento di novità sta in questo: le indagini su Capaci sono ancora coperte dal segreto investigativo. Sono sulla scrivania di Sergio Lari, procuratore capo di Caltanissetta, tutti gli atti sui 57 giorni che fecero tremare la nostra democrazia. L'inchiesta sull'attentato al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta è stata ribaltata mano a mano che i contorni della trattativa tra Stato e mafia emergevano e le originarie sentenze sono crollate fino alla scarcerazione degli imputati, scolpendo una domanda soprattutto: fu una successione di errori o un clamoroso depistaggio? Mentre all'anniversario di Via D'Amelio, il 19 luglio, si arriva quest'anno con dei nuovi punti fermi, sono ancora senza volto molte delle tessere tracciate dall'inchiesta tuttora aperta sull'attentatuni. Che la trattativa vi sia stata non c'è dubbio, perché è stato accertato con le sentenze che si sono occupate della strage di Firenze del 93 e lo hanno accertato anche le indagini collegate svolte dalla procura di Palermo e da quella di Caltanissetta. Il problema è il nesso che può essere stato tra l'evoluzione di questa trattativa e la decisione di accelerare i tempi di esecuzione della strage di Via D'Amelio, che era una strage però già autonomamente deliberata da Cosa Nostra nel dicembre del 91, in occasione di una riunione della commissione provinciale presieduta dallo stesso Salvatore Riina. La deliberazione sulla strage di Capaci e di Via D'Amelio nasce da una decisione autonoma di Cosa Nostra, ma che non si può escludere che durante quel periodo di tempo che possiamo ricomprendere tra il 30 gennaio del 92 e la strage di Via D'Amelio vi sono indizi che fanno sospettare della possibile convergenza di interessi tra Cosa Nostra e soggetti esterni. Noi abbiamo sempre pensato a soggetti esperti, per esempio nell'uso di esplosivi, la disposizione di telecomandi o quant'altro. Ecco, il ruolo di possibili concorrenti esterni è quello sul quale ancora le indagini proseguono. Quindi una convergenza che i vostri indizi vi portano a vedere anche per la strage di Capaci? Un comando composto da uomini d'onore del mandamento di Brancaccio e della provincia di Trapani si era recato a Roma nel febbraio del 1992 perché dovevano uccidere Giovanni Falcone. Il 4 marzo del 92 Vincenzo Sinacori, uno dei killer di Cosa Nostra della provincia di Trapani, viene convocato da Riina e riceve l'ordine di far rientrare tutti a Palermo perché erano arrivate indicazioni, fa capire Riina, per le quali questo omicidio doveva essere compiuto con modalità più eclatanti, e poi vedremo che lì ci sarà la svolta nel metodo stragista. E quindi si arriva all'attentatuni del 23 maggio. Quindi però questo vuol dire che se per la strage di Via D'Amelio le vostre indagini stanno portando delle definizioni ben precise su questa convergenza di interessi, c'è qualcosa di non ancora ben chiarito anche sulla strage di Capaci? Sulla strage di Capaci c'è questo snodo che io stavo narrando, che ci fa sospettare del possibile ruolo di soggetti esterni che abbiamo potuto dare un contributo per eseguire un attentato che richiedeva delle competenze molto specialistiche, fare saltare un pezzo di autostrada imbottendola di tritolo e di altri materiali esplodenti non era un'impresa facile, anche se fu identificato in Sebastiano Rampulla, l'artificiere di Cosa Nostra, che proprio il giorno dell'attentato non presenziò. Si tratta di indizi basati su ragionamenti di tipo logico e su frammentari dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Viceversa, sulla strage di Via D'Amelio abbiamo elementi indiziari più concreti, posto che Spatuzza ci ha riferito di aver incontrato, quando ha consegnato la macchina doveva essere in bottiglia di Tritolo, di aver incontrato in compagnia degli uomini della mafia di Brancaccio da lui conosciuti un soggetto sulla base della ricostruzione di Spatuzza esterno a Cosa Nostra da lui conosciuta. Servirebbe quindi anche uno Spatuzza per le inchieste sulla strage di Capaci? Noi abbiamo ricostruito un enorme puzzle. In questo puzzle, per quanto riguarda la strage di Via D'Amelio, c'erano tessere false e tessere mancanti. Abbiamo individuato le tessere false e qualcuna delle tessere mancanti, ma non tutte. Per quanto riguarda Capaci, le precedenti sentenze avevano portato alla condanna di ben 36 persone e nessuna di queste condanne è stata messa in discussione dalle nostre nuove indagini. Stiamo cercando nuovi corresponsabili. Io ricordo ciò che mi disse Nini Cassarà allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. In quell'estate che aveva trasformato Palermo nella Beirut d'Italia, Paolo Borsellino lo sapeva che loro erano tutti cadaveri che camminavano, lui più degli altri, e oggi le inchieste di Caltanissetta associano ad uno stesso mandamento entrambe le stragi, in un unico filo che unisce il Tritolo di Palermo alle bombe di Milano, Firenze e dell'Olimpico, un filo come quello che Giovanni Falcone aveva ricondotto alle menti raffinatissime, come definì la regia del fallito attentato della Daura, che lui stesso raccontò alla giornalista con cui scrisse il suo libro Cose di Cosa Nostra, Marcel Padovani. Un giorno dopo l'attentato lui mi disse: tu sai che quando c'è un attentato il primo che ti telefona è l'attentatore, indovina chi mi ha chiamato? E io ho un momento di incertezza, così poi dico: Andreotti. Lui mi dice: no, pensa un po', mi ha chiamato il commissario antimafia Domenico Sicca. Ed era un modo per farmi capire che c'era parecchio marcio sotto l'attentato, non c'era forse soltanto o forse non c'era la mafia. Su quel palazzo di giustizia di Palermo, dove già volteggiarono i corvi e le talpe scavarono le loro gallerie, 20 anni dopo prende forma pure lo spettro di un traditore sugli ultimi giorni di Borsellino, un traditore all'interno dello Stato, in nome di un patto scellerato con Cosa Nostra, che col boato delle stragi del 92-93 era diventato un ricatto alle istituzioni, scrivono i PM di Caltanissetta, che tra persistenti amnesie, ricordi tardivi e pezzi di verità hanno messo insieme i racconti di ex ministri come Mancino, Conso, Martelli, le dichiarazioni di Liliana Ferraro, la magistrata amica dei giudici, per diradare le nebbie intorno ai giorni in cui lo Stato trattò coi boss. E per quella trattativa il giudice, amico d'infanzia di Falcone, divenne un ostacolo da eliminare, a quanto accerta l'inchiesta e a quanto le stesse lacrime di Borsellino avevano anticipato. Lacrime finite negli atti dell'indagine, nel racconto di due giovani colleghi di Marsala che raccolsero il suo sfogo, come Massimo Russo. Nel giugno del 92 ci trovammo io e Alessandra Camassa, l'altra collega marsalese, a Palermo. Lo incontrammo nella sua stanza, era piegato dal dolore e dalle responsabilità che sentiva gravare su di lui. Ci venne incontro, ci abbracciò, ci salutò, si sedette nuovamente davanti alla scrivania sulla sua sedia a parlare. A un certo punto interruppe e disse: qualcuno mi ha tradito, qualcuno mi ha tradito. E poi si alzò dalla sedia, girò la scrivania e si accasciò sulla poltrona, un divanetto a due posti, ricordo perfettamente, con le lacrime agli occhi. E poi aggiunse, ma erano due momenti diversi: anche qui è un nido di vipere, facendo riferimento alla procura di Palermo. Lui appunto pensava di essere stato tradito da qualcuno dello Stato. Aveva un senso preciso quella sua affermazione: era stato tradito da qualcuno. Non fece nome? No, non fece nome. Ci invitammo ad ascoltare, a rimanere un po' basiti, intanto dalla sua condizione fisica. Vedere Paolo Borsellino che piangeva, insomma, Anche perché, come anche ha raccontato a verbale la sua collega Alessandra Camassa, Paolo Borsellino era un uomo all'antica, da detto, e non l'aveva mai fatto di piangere, e quindi... Lei anche con la moglie di Borsellino ne aveva parlato di questo incontro che avevate avuto, di questo suo sfogo? Credo di sì. Che cosa le disse? Non ricordo. Lo riferì la vedova Borsellino, Agnese quel nome, quando raccontò lo sconvolgimento del marito che aveva saputo che il generale Subranni, suo amico, era Punciutu, colluso cioè con la mafia. Il diretto interessato ora smentisce, ma questa è solo una delle tessere che deve ancora andare a posto, come l'identità del misterioso signor Franco di cui parla Massimo Ciancimino, figlio del sindaco mafioso di Palermo, e come l'identità delle menti raffinatissime che sembrano aleggiare 20 anni dopo tutto. Ora, sopra la voragine di Capaci. E se anche gli ultimi fatti, come l'attentato di Brindisi, fanno dire al capo dello Stato che la violenza stragista può tornare, oggi, a differenza di 20 anni fa, da Palermo l'Italia, per bocca del Premier, avverte che non esiste alcuna ragion di Stato che possa giustificare i ritardi nella ricerca della verità. A ciascuno il suo. Doveva essere ucciso a Roma, per strada, Giovanni Falcone, con armi corte. Fu fatto fuori, invece, a Palermo, con 500 chili di tritolo e un'intenzione ben precisa: mandare un messaggio. Ma che cosa portò al dietro fronte ordinato da Totò Riina ai suoi picciotti, che, come abbiamo sentito nella prima parte, erano già pronti nella capitale per far fuori il giudice? E questo uno dei principali pezzi mancanti sia della strage di Capaci che di tutta la ricostruzione della trattativa tra Stato e mafia, perché una delle ipotesi su cui le procure di Caltanissetta e Palermo lavorano è che il ricatto dei boss possa essere iniziato proprio allora, in quelle prime settimane del 92, col cambio di programmi sull'attentato a Falcone e poi col delitto di Salvo Lima, per andare avanti con Capaci e poi fino a Via D'Amelio, quando a morire fu Paolo Borsellino, con la scorta nei limacciosi 57 giorni di quell'estate del 92 che fece tremare lo scheletro del paese. 20 anni dopo, dunque, i pezzi mancanti restano tanti, come gli interrogativi e le amnesie di molti testimoni, ma almeno per la prima volta ora la voce istituzionale del paese proclama che l'unica ragione di Stato è la verità. Una verità che soprattutto le vittime e i sopravvissuti reclamano, come Giuseppe Costanza, l'autista di Falcone, che era proprio nella sua auto nel momento in cui l'intera autostrada divenne un'onda di terra. L'ha intervistato Alessandro Milan. Il 23 maggio del 92 mi trovavo a bordo della macchina del dottor Falcone, condotta da lui, in quanto io ero il conducente di quella macchina. Ma siccome la moglie si è seduta davanti perché preferiva così, il marito, quindi il dottor Giovanni Falcone, si poneva alla guida e io mi sedevo dietro nei sedili posteriori. Strada facendo mi disse che è arrivato a Palermo, lui avrebbe continuato il suo iter, aveva un incontro con qualcuno e non aveva più bisogno della mia presenza. Quindi gli ho detto: arrivato a casa, allora mi ridà le mie chiavi in modo che io possa riprendere la macchina lunedì mattina per riaccompagnarlo in aeroporto. Lui invece, istintivamente, non so, era stato a pensiero, ha tolto le chiavi, spegnendo la macchina praticamente. Io richiamai dicendogli: cosa fa, così ci andiamo a ammazzare. E lui annuì, mi chiese scusa, dice: scusi, ma mi poggia le mie chiavi e inserisce le sue. Quello è stato l'attimo che io ricordo con precisione, perché poi non ricordo più nulla, poi c'è stato un risveglio in ospedale, quindi ritengo che sia stato in quel momento che è avvenuta l'esplosione. Giuseppe Costanza, se avete capito, era l'autista, il conducente dell'auto di Giovanni Falcone. Quante persone lo sanno in Italia? C'è un fatto strano in Italia. In Italia si vive di morti, purtroppo, mi dispiace dirlo, giusto ricordarli, per carità, hanno dato la vita per servire lo Stato. Ma chi rimane vivo, che colpa ne ha? Cioè, mi hanno fatto pesare

ma che si permettono di emarginare chi per 8 anni ha dato un contributo allo Stato rischiando la propria vita. Se io morivo anche i miei familiari ne avrebbero, come ne hanno subito, un danno, perché chi rimane vivo, guardate, io sono morto a Capaci, io sono vivo fuori, ma io dentro sono morto a Capaci. E ci piace chiudere questa puntata di A Ciascuno il Suo ricordando proprio le parole di Falcone. La mafia, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà una fine, ma è un fenomeno terribilmente serio e molto grave, e si può vincere non pretendendo l'eroismo da inermi cittadini, ma mettendo in campo le migliori forze dello Stato. Vi ricordo la pagina Facebook e il blog Storiacce, mentre su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti!